per tutti de mio cor gli affanni, e se voi negherete il vostro aiuto, forse per sempre per noi. Morirò.